Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. 3x5, 25, 6x3, 33, 2x8, 48, 3x9, 29, 6+2. Buongiorno a voi e benvenuti. Partiamo dai numeri. Oggi ve ne do 3. 0, 5 e 30. Questa è la formula della salute. Per impararla ci vuole davvero un minuto, per metterla in pratica un po' di impegno, un pizzico di determinazione, ma conviene. I risultati di una grande mole di ricerche ci dicono che i nostri sforzi saranno ricompensati. E do subito il benvenuto al dottor Attilio Speciani, allergologo immunologo clinico a Milano. Dottore, buongiorno. Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Ho bisogno come sempre del suo sostegno. 0, 5, 30. 0 sta per 0 sigarette, 5 le porzioni di frutta e verdura da mangiare ogni giorno, 30 sono i minuti che dobbiamo dedicare all'attività sportiva, all'attività fisica, dobbiamo muoverci. A parte il fatto che quando dici 0, 5, 30 mi viene in mente Battisti con 7,40, e quindi vabbè, ma questo denota l'età, ma dai, siamo è domenica, possiamo anche cercare di sorridere, sono state giornate difficili, però questa cosa, per favore, 0, 5, 30 ce la discutiamo. Zero sigarette, ma uno dice perché? Ma sì, perché il fumo fa male. Sembra mia nonna quando diceva: non il vino veleno, caffè veleno, ogni bambino ne faccia meno. In realtà man mano abbiamo capito, non è che il fumo sia solo creazione di ossidazione, c'è un dato fortissimo: la nicotina blocca e paralizza per 24-28 ore le ciglia vibratili, wow, parolina simpatica, che sono quei peluzzini microscopici, sì, che dentro le nostre vie respiratorie riescono a fluidificare, a portare via le cose, ad esempio le particelle incombuste, le PM10, il PM2,5. Quindi anche chi fuma solo una sigaretta in realtà al giorno, in realtà si sta dando una martellata nei posti sbagliati. Sì. Cioè, ok. Quindi, intende alle cigliette lei. Esatto, alle cigliette, esattamente questa. Siamo in orario protetto, quindi non possiamo assolutamente dire altro. E questo è importante, ci aiuta anche, posso spendere una parola? Questa cosa qui, quando oggi la gente non fuma dentro nei locali, ma fuma appena fuori, e quindi per le persone che non fumano, uscire in realtà fai una zaffata di gente che sta fumando. Devo dire che è abbastanza interessante questa cosa a livello internazionale di limitare un po' nei davanti dei locali questo tipo di attenzione. Il 5, 5 porzioni. Lo diciamo sempre. 5 porzioni, e adesso voi negli ultimi tempi ci dite delle 5 porzioni privilegiate più la verdura della frutta. Sì, questo proprio legato al quindi fatto. Quindi cosa facciamo? 3 di verdura, 2 di frutta. Ma devo dire almeno che anche la Harvard Medical School, che ha impostato proprio la divisione del singolo pasto, mette la frutta un pochettino meno, la verdura un po' di più, perché nella frutta, ad esempio, ci sono più zuccheri che vanno modulati talvolta, non sempre, ma talvolta. Quindi questo è un criterio, però i 5 ci vogliono e dobbiamo farli. Sul 30 io non solo, oggi ho portato una bella ricerca che è ancora del 1994, del secolo scorso. Ma che cosa mi sta dicendo? Cosa racconto, no? in cui si specifica gli effetti positivi proprio sul tratto respiratorio, siccome sono qui in questo momento tutti che si spaventano se uno semplicemente tira su un pezzettino di naso da un colpino di tosse perché gli è andato di attraverso la saliva, eccetera. Ecco, ricordiamoci che l'attività fisica fatta all'aperto in questo momento, e secondo me, non entriamo in questa discussione, però diciamo l'attività fisica in realtà migliora anche la funzione del sistema respiratorio, non solo di tutto il sistema immunitario. Più di recente invece abbiamo una bellissima ricerca, questa dell'anno scorso, siamo nel 2020, quindi nel 2019, che ci spiega che c'è assolutamente una potenzialità di lavorare dal punto di vista pratico con l'attività fisica senza avere quello che ogni tanto qualcuno sta dicendo, no? Adesso dice ma se fai attività intensa in realtà il tuo sistema immunitario crolla. Attenti, questa cosa succede se uno ha più di 14 ore alla settimana di attività fisica in cui crea più sostanze ossidanti che non. Se invece sono meno e se uno fa un'attività intensa, pesistica, eccetera, oppure piuttosto una corsa forte, una corsa veloce, simili, in realtà il sistema immunitario semplicemente si muove un po' in posti diversi nell'organismo. Quindi riconfermo assolutamente che l'esercizio, anche l'esercizio strenuo, può essere estremamente utile. Quindi 0530 approvata, la formula della salute. Noi ritorniamo sulle 5 porzioni di frutta e verdura, perché dottor Speciani, insieme alla frutta e alla verdura, noi non possiamo dimenticare le virtù delle spezie. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Licia Iacoviello, che è direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'IRCCS, Neuromed e docente di Igiene e Salute Pubblica all'Università dell'Insubria di Varese. Professoressa, buongiorno, buona domenica. Buongiorno Nicoletta, buona domenica a tutti. Allora, alla tavola della bufala in tavola si mangi in allegria. Anche questo bisognerebbe aggiungere, dottor Speciani. Assolutamente. Ecco, questo un pizzico di ottimismo, di allegria per condire tutte le nostre relazioni, la nostra vita, la nostra quotidianità. Ma a proposito di pizzichi, ci aiutano anche le spezie. Professoressa Iacoviello, prima fra tutto il peperoncino di casa nostra. Voi avete dedicato numerosi studi alle virtù del peperoncino piccante. Noi le conosciamo, ma ci piace sentircele raccontare da chi le ha studiate direttamente con attenzione. Sicuramente il peperoncino aggiunto ai pasti in maniera regolare, in particolare quello piccante, allunga la vita e ci fa bene al cuore. E in generale, diciamo, ci fa vivere di più. Quindi qualche pizzico, dottor Speciani, in ogni pranzo e cena un pizzico di peperoncino. Ma no, lo diciamo sempre, il piccante nella vita fa bene. Assolutamente. Ma meglio fresco o meglio secco? Ma in effetti dai nostri studi non si evince molta differenza. È bene usarlo fresco, secco, conservato nell'olio extravergine di oliva. Bravo, proprio lì volevo venire, perché io ho l'olio extravergine d'oliva al peperoncino. Quindi è veramente una bomba, dottor Speciani. È una bomba potente. Questa cosa che ha dentro, che è la capsaicina, è di una potenza incredibile. Nei primi tempi io usavo della capsaicina, la facevo utilizzare perché è un'azione immunologica importante, e alcuni dei laboratori che la usavano, che non la conoscevano, aprivano la capsaicina nel laboratorio, poi dovevano tenere chiuso il laboratorio per 4 giorni per la diffusione. Mamma mia che pizzica. Professoressa, oltre al peperoncino ci aiutano però anche altre spezie, io direi vicine e lontane. Professoressa, che cosa avete studiato? Sì, in effetti tutte le spezie sono utili alla nostra cucina, usarle nella preparazione dei cibi, siano esse le spezie, diciamo, di casa nostra come l'origano, il basilico, o quelle un po' più lontane come la curcuma o lo zenzero, ci aiutano per esempio a ridurre la quantità di sale. Noi sappiamo che troppo sale fa male alla nostra pressione e quindi al nostro cuore. Ed fa anche rima, troppo sale fa male. Sullo zucchero non ci dobbiamo preparare la rima, ma ce la faremo. Ce la facciamo. Quindi possiamo, utilizzando le spezie, ridurre la quantità di sale. Questa è sempre una buona mossa. E d'altra parte aggiungere degli antiossidanti che sono presenti in queste spezie, che ci aiutano per esempio ad aumentare la salute dei nostri vasi e a ridurre l'infiammazione. Quindi possono funzionare come degli antinfiammatori. Questo ci piace e danno piace gusto. Professoressa, io la ringrazio per essere stato con noi. Allora, dottor Speciani, noi, finita la puntata, mi raccomando, lei l'ha portato il peperoncino? Certo che ce l'ho, a parte che anche la modalità di vita, uno dice, stai portando peperoncino nella nostra allora relazione. Allora noi ci fermiamo e poi riprendiamo. Grazie, tra poco. La bufala in tavola. Se nel tuo mondo dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. No, non vi do 3 parole, ma 3 numeri. La formula della salute 0530, ne stiamo parlando con il dottor Speciani, che ho seduto a capotavola alla tavola della bufala in tavola, così tra una chiacchiera e l'altra spilucchiamo, mangiucchiamo, aggiungiamo, a mettere un po' in difficoltà il nostro benessere. Non sono solo virus e batteri, ma anche la mancanza di sonno. Quindi la formula dovrebbe anche comprendere un altro numero, ma per dirvi quello giusto ho bisogno dell'aiuto di un grande amico della nostra trasmissione, che è già in linea con noi, il professor Roberto Manfredini, direttore della Clinica Medica Universitaria di Ferrara e autore di un libro che ci è piaciuto tantissimo, Un tempo per ogni cosa, PM Editore. Buongiorno professore, buona domenica. Buongiorno Nicoletta, da saluti dal vostro affezionato, gelosissimo e invidiosissimo collaboratore. Fai bene. Lo so, purtroppo che faccio bene. Professor Manfredini, qua diamo i numeri oggi. ci dia anche lei il suo o i suoi. Io potrei dare una tombola. Ah, ecco. Perché i numeri del sonno sono variabili, non c'è un numero magico per chiunque. Intanto il primo numero che possiamo dare è quanto dura un ciclo completo di sonno, un ciclo come Dio comanda, dura circa 90 minuti e ne occorrono al minimo 2. Quindi vuol dire il primo numero che diamo sono 3 ore, 180 minuti, è il minimo indispensabile che servono dell'essere umano. Poi naturalmente ne possiamo aggiungere molti altri, certo. Però dobbiamo ricordare che non si va a numeri di quantità, ma si va a qualità. Poi abbiamo i numeri del fabbisogno di sonno, che è variabile dall'età. Sappiamo tutti che i neonati, i bambini hanno bisogno di molte ore di sonno, 14, 15, 16, in età scolare anche 12, 13. Noi adulti un pochino di meno, possono bastare 7, 8, 9 ore. Quando si diventa anziani possono bastare anche 5 o 6, è abbastanza fisiologico dormire di meno. Quindi questi numeri sono un pochino variabili rispetto alla nostra età e al nostro lavoro anche. Assolutamente, il sonno, lo dicevano già le nostre nonne, è nutrimento e i dati ci dicono, la letteratura ci conferma che svolge una funzione indispensabile, fondamentale per la nostra salute. Professor Manfredini. Sì, molte funzioni indispensabili, perché praticamente ogni qualche mese, ogni anno ne scopriamo delle nuove, quindi non c'è solo la vecchia concezione del fatto che comunque senza sonno si muore, questo è indispensabile. E poi, non so, ricaricare le batterie, ma c'è tutto il cantiere cervello che durante la notte lavora e organizza. Il sonno è proprio un vero e proprio spazzino, possiamo definirlo così? È un vero cantiere, perché costruisce, rimodella le sinapsi, rimodella tutte le conoscenze che noi in un giorno incameriamo, che sono talmente tante che non ci potrebbero stare per quanto sia un super computer, quindi le organizza, le scheda, qualcuna la mantiene, qualcuna la elimina, e come tutti i cantieri, quando si costruisce ci sono anche dei detriti, avanzano chiaramente anche degli scarti, e durante la notte il cervello ripulisce anche dagli scarti, allargando il sistema linfatico e ripulendo dalle scorie. Quindi veramente poi c'è un apprendimento, durante la notte si apprendono delle cose, la memoria si fissa, c'è la creatività, c'è veramente indispensabile. Professore, quindi lei ha aggiunto numerosi numeri, ne vuole aggiungere un altro? Beh, approfittando del già che si è allargato, che è lì a tavola, aggiungerei semplicemente 12, 11 o 12, che vuol dire il digiuno, che vuol dire che la notte il cervello fa già tutte queste cose, noi dobbiamo dormire e non dobbiamo assolutamente mangiare. Ecco, bravo, ho visto il far partire la ola da il dottor parte. Speciani, ho visto che si è ringalluzzito, dottore, sapevo che il professor Manfredini le sarebbe piaciuto. D'altra parte, linea, certo. Beh, d'altra parte una padrona di casa in vita, ma combina gli ospiti in modo che ci sia l'armonia e l'equilibrio, che secondo me è assolutamente un nutrimento al pari di quello che portiamo a tavola, del nostro sonno. Le buone relazioni aiutano. Ma io Roberto, La gentilezza ci salverà. Beh, fantastico. Mi piace dirti quello che le persone raccontano, anche quando gli spiego le parti metaboliche, le cause perché queste cose avvengono, e quelli che dicono: no, ma io se non mangio qualcosa di dolce alla sera poi non prendo sonno, no? E lo fanno quasi come ricerca. Eppure tutte le persone a cui io chiedo, ad esempio, di fare anche un digiuno breve, talvolta di saltare la cena, di comunque di avere queste davvero 12-15 ore di tempo, mi dicono: caspita, magari sentivo un po' di fame perché ero abituato, ma come ho dormito meglio, come ho dormito più, come mi sono sentito meglio al risveglio, no? Allora, questi due opposti mi sembra che siano esattamente le cose che tu stai segnalando, perché poi le persone, se riescono a non avere il carico alimentare, in effetti hanno durante la notte il tempo giusto per fare le cose che tu hai detto. A proposito di tempo, le persone purtroppo non sanno che durante la notte, ma non c'entra niente il diabete, tutte le persone normali hanno una resistenza all'insulina molto elevata, per cui mettere specialmente appunto qualcosa di dolce alla sera vuol dire alzare la glicemia in una maniera esagerata, che non ce n'è motivo e anzi, se vogliamo, è anche dannoso. Perché, professor Manfredini, c'è un tempo per ogni cosa. Assolutamente sì. Nel titolo del suo libro c'è già tutto. E io la ringrazio. E allora, professor Manfredini, prima di salutarci, c'è un tempo per ogni cosa. Scandiamo i tempi, che aiutano, il rispetto di questi tempi aiuta la nostra salute. Noi siamo in un momento in cui dobbiamo attrezzarci, dobbiamo resistere, dobbiamo mantenerci sani e forti, dobbiamo proteggere la nostra salute. Lo facciamo per noi, lo facciamo per le persone con cui viviamo. No, la mia ricetta, l'abbiamo un pochino accennata, è, nell'arco della giornata, cercare di rispettare i nostri ritmi. Abbiamo già parlato del sonno, quindi c'è il collega bravissimo che parla di in che ore e come scandire l'alimentazione, che è un altro dei ritmi importanti. Abbiamo l'attività fisica, che è un altro grandissimo determinante di salute. L'attività fisica farla quando si vuole, perché va fatta, però ecco, diciamo che se uno ha un po' così attenzione a voler fare anche un recordino oppure fare un pochino il tempo, meglio se lo fa al pomeriggio, altrimenti va benissimo anche alla mattina prima di colazione, se ama fare la corsettina alla mattina, meglio farla a digiuno. Sono tutti piccoli consigli che ci aiuteranno a stare meglio. Professor Manfredini, grazie per essere stato con noi, venga a trovarci presto. Grazie a voi e buona giornata. Grazie. Dottor Speciani, ma il sonno si guadagna anche a tavola, anche la dieta, anche se non risolve il problema dell'insonnia, può aiutarci a fare pace con Morfeo, insomma a metterci in quella predisposizione adatta per abbandonarci al suo abbraccio. Ma che bello, sensualissimo. Fantastico. Questo Morfeo, io voglio portare un esempio, perché ci sono alcuni alimenti che per tradizione aiutano a volte l'addormentamento. Ecco, ma è davvero così? Diciamo che ad esempio alcuni dicono che il latte alla sera, siccome contiene triptofano, in realtà è il precursore di e così via. Ci sono alcune sostanze, il cioccolato che attiva dentro della glutammina e quindi stimola certi tipi di sostanze che riequilibrano. A voler cercare la relazione c'è? Volendo si trova qualche elemento di questo tipo, però ho appena detto prima con Manfredini. Non ci fate mangiare prima di andare a dormire, poi ci dite prendete il latte, cosa dicono questi qui? No, io sto dicendo che per tradizione. Sto scherzando, dottor Speciani. E come subito. Noi abbiamo sempre detto che se uno la sera, in ossequio a quello che dice Manfredini, ha voglia di mangiarsi un po' di cioccolato o di bere qualche cosa, bisogna che lo consumi, no? Come si diceva, certo. È un lato importante da spiegare. Io però cito, ed è un tema che vediamo lavorando con l'infiammazione indotta dagli alimenti, e mi sono inventato una metafora che la gente capisce, cioè le persone che stanno mangiando alimenti infiammanti, che quindi generano un'infiammazione presente, la ripetizione dello stesso cibo, eccetera, in realtà è come, io la chiamo la sindrome dell'albergo nella città che non conosci. Cioè mettiamo che, in genere lo faccio con il tedesco per quelli che poche persone sanno il tedesco, dico lei sa il tedesco, fa no. Allora immagini di essere ad Amburgo, entra col suo inglese, riesce a prendere la stanza, va in stanza, poi improvvisamente durante la notte inizia a sentire suoni di bombe che scoppiano, allarmi Mamma che suonano mia. Prova a chiamare il telefono e le rispondono in tedesco e nessuno le risponde in inglese, in italiano. Nella sua stanza non sta succedendo nulla, ma intorno c'è un putiferio notevole. Lei si riaddormenta e mi dico no. Resto aggrappato ai vetri e dico esatto, è quello che succede nell'organismo. Se c'è un'infiammazione, tu vivi una situazione di allarme, di forte intenso allarme, di cui non riesci a capire l'origine. Non sta succedendo nulla di gravoso, ma l'allarme dentro c'è, l'organismo lo sente e quindi i sistemi di attivazione restano vivi. È uno dei motivi per cui quando mettiamo a posto, riusciamo a dare una varietà alimentare, capiamo un profilo alimentare personalizzato adatto alle persone, dicono e sto anche dormendo meglio, che è un dato di forte impatto ovviamente. Beh, è certo che bisognerebbe anche ridurre, perché eliminare non è possibile, i problemi, le fonti di stress con cui comunque tutti noi, no, veniamo in contatto. Lo stress non si può eliminare, abbiamo detto tante volte che c'è lo stress buono, meno male che c'è. Dobbiamo però imparare a gestire lo stress quotidiano nel modo giusto, dottor Speciani, perché anche lo stress genera infiammazione e quindi ancora una volta è importante scegliere a tavola gli alimenti giusti per aiutare il nostro organismo, il nostro sistema immunitario a fare il suo lavoro, e cioè a difenderci e a farci stare bene. Ma non solo, questa cosa è rilevante, a me piace ricordare che su questo tema ha lavorato, anche preso un Nobel, la Rita Levi-Montalcini, proprio sulla relazione tra elementi immunologici, quindi di contatto col cibo, con le sostanze esterne, e contemporaneamente la relazione di questo NGF, la sostanza per cui ha preso il Nobel, che correla anche con col cervello, con la mente, con le capacità ad esempio di meditare, di trovare un momento di stop e di respirarsi nel modo giusto prima di andare a mangiare, come faremo noi tra poco. E noi però ci fermiamo. Intanto voi che cosa state preparando? I nostri social sono a vostra disposizione, postate, scrivete, restate in contatto con noi. A tra poco. Il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza, la volta in cui abbiamo conosciuto la morte. tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime. L'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Un confine che abbiamo varcato. Una soglia oltre la quale siamo passati. A volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che nel bene o nel male ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Il preside di Saronno che avvisa gli studenti su YouTube di collegarsi per le lezioni virtuali. La maestra che parla in video ai suoi bambini di Vo in zona rossa. L'emergenza coronavirus ha dato una spinta alla didattica digitale e quando torneremo alla vita normale ci regalerà forse delle scuole migliori. Percorso che però in molte scuole era già iniziato. Viaggio nelle scuole più innovative d'Italia, verso il futuro e oltre scuola, università, ITS, dove e come prepararsi alle sfide di domani. Sono Maria Piera Ceci e vi aspetto ogni giovedì con una nuova puntata su radio24.it. La bufala in tavola. I consigli dei politologi, liste di attese infinite dagli urologi, la voce del presidente alla radio. E questa crisi che crea panico da stadio, anche le madri sono molto preoccupate, usano internet per essere aggiornate, e anche l'Italia non è più quella di una volta, quando Mina cantava tu le mille bolle blu. Che stress, che stress. Stavo ballando qua, improvvisando un balletto per il dottor Speciani, voilà, a proposito di piccante, ma bisogna fantastica. Anche un po' muoversi un po'. Dottor Speciani, la formula della nostra salute 0530, ma abbiamo aggiunto altri numeri perché bisogna riposare anche bene, bisogna anche saper resistere e gestire lo stress. Tutto questo ci aiuta. Noi abbiamo messo anche nella nostra formula delle buone relazioni. Possiamo ad esempio mantenere gli occhi che sorridono. Nelle relazioni. Questo è fondamentale. Ecco, soprattutto in questo periodo. Non possiamo baciarci, non possiamo stringerci le mani. Che problema c'è? Sorridiamoci con gli occhi. Dottor Speciani, questo non so se rafforza il nostro sistema immunitario, ma sicuramente aiuta. Sì. Anche ballare ogni tanto, anche certo, da soli a casa. Certo. Scarichiamo, dai, balliamo. Adesso poi è un po' difficile riuscire a fare attività fisica all'aperto, si può fare tranquillamente, spero che si possano anche riprendere altre attività, pensa certo. A quelli che si allenano con i pesi, le cose che sono bloccati in questo momento, non si può entrare in palestra, in cose eccetera. Si porta tutto a casa oppure anche i parchi diventano delle palestre a cielo aperto, abbiamo fatto una bella diretta Facebook con il dottor Stefano Respizzi che è un fisiatra e ci raccontava il potere ad esempio degli elastici, sì. E quindi che possono funzionare in alternativa ai pesi, ci sono di diversi colori, va bene, insomma, andiamo avanti. Siamo un popolo fantasioso, sì, e quindi sappiamo. È un popolo, devo dire, grande. Grande, bravi, non dimentichiamocelo mai. Dottor Speciani, andiamo a tavola? Ma sì che andiamo a tavola. Mangiamo, perché qua si parla solo, dottor Speciani. Però possiamo mangiare anche con un pizzico, visto che abbiamo parlato di pizzichi, di piccante anche prima, con un pizzico di tutela della nostra salute, del nostro sistema immunitario. Bravo. E qui io butto lì, ad esempio, la gente dirà, ma cosa mi serve il selenio dentro ai cibi? Cioè, alcuni pesci, ad esempio il polpo, l'orata, il sargo, la mormora, la seppia hanno dentro un alto quantitativo di selenio. I pistacchi, gli anacardi che sono estremamente importanti, il tuorlo d'uovo che molte persone tolgono perché dicono invece ma io dico D. Ma se la natura l'ha fatto così con albume e tuorlo, chi siamo noi per separarli? È quello che sostengo da tempo. Entriamo in una polemica differente. Allora perché parlo del selenio? Perché c'è uno studio, il primo è comparso nel 2003 ma l'altro invece è del 2019, di pochi mesi fa, che spiega come se noi siamo senza selenio e quando abbiamo ad esempio un'infezione virale, giusto ne parliamo un poco, no? Mi sembra in questi giorni, il nostro selenio viene consumato e quindi è indispensabile per difendersi. In un organismo che è povero di selenio, in realtà i virus, quello dell'influenza, quello del raffreddore, il coronavirus, tutti, possono mutare e quindi proseguire nella loro marcia di infezione costante. Perché il selenio rappresenta, fa un po' da barriera? Diciamo che consente all'organismo di fare barriera, quindi di bloccarsi. Per cui gli elementi, infatti gli elementi che ho suggerito a tutti i miei pazienti sono degli integratori anche a base di selenio, mischiati a zinco, rame, manganese, eccetera. Questa cosa è importantissima perché si è specificamente visto, tra l'altro anche su virus potenti, che la capacità di un organismo in grado di avere un giusto e adeguato, non un eccesso, il giusto e adeguato contenuto di selenio è in grado di difendere. Ma mica male. No, assolutamente il selenio, ma con una dieta varia ed equilibrata possiamo essere... Sì e no, nel senso che il tema è che in condizioni di stress... Lei suggerisce di integrarlo comunque. In queste fasi, da molti anni, suggerisco una integrazione relativamente modesta ma sufficiente nelle fasi di tipo invernale. In questo momento la suggerisco ancora di più in modo specifico, ecco, questo sì. Non ci sono controindicazioni? A dosaggi bassi. Che cosa vuol dire dosaggio basso? Vuol dire che sono quelli compresi dall'ARM, quindi con una situazione che consente di avere quei microgrammi che sono, non troverà mai delle composizioni di selenio vendute ad alto livello, perché quelle acquistabili sono assolutamente sotto i LARM, assolutamente, ecco. Quindi ai livelli di assunzione quindi integriamo, ma l'integrazione non giustifica assolutamente l'adozione di una dieta scriteriata. Noi dobbiamo mangiare bene e integrare, certo, quando è necessario, soprattutto per avere una marcia in più. Dopo vi racconto un'insalata, però andiamo avanti su alcuni aspetti. Quindi selenio ci piace, e devo dire che un po' diventa il simbolo anche di altre sostanze, perché se uno non assorbe selenio, anche zinco e rame manganese sono abbastanza deficitari. Però c'è un dato che è estremamente rilevante, questo vale la pena. Sentivo prima Manfredini, quando invidioso di non essere qui a mangiare con noi, e ci diceva specificamente che c'è un tema anche relativo agli zuccheri. Allora, questo è uno studio che io vorrei definire di un'attualità e ho sentito poche persone che ne parlano, perché è stato pubblicato il 20 di gennaio del 2020, esattamente questo 20 che ritorna. Torna e con proprio su persone affette da coronavirus, che è un tema importante. Uno studio dove fatto... è stato pubblicato, perché così noi abbiamo sempre tutti i riferimenti anche agli ascoltatori che vogliono andare, mettiamo i link, gli approfondimenti, facciamo tutte le cose. È stato pubblicato il 26 di gennaio su Emerging Infectious Diseases e ha confermato specificamente che la MERS, noi abbiamo sentito parlare, è stata il coronavirus più cattivo, diciamo, che di cugino di questo. Un cugino, però quindi esatto, sempre del gruppo SARS e così via. E in realtà nelle persone con una alterazione degli equilibri glicemici era sicuramente più aggressivo. Questo porta a dire che lo zucchero, noi abbiamo un ormone che ce lo fa cercare, quindi non può essere cattivo. No. Ma non può essere continuativo, non può essere sistematico, non può essere usato in ogni pasto, in ogni crecherino, in ogni pezzettino di roba che mangiamo. Noi siamo qui oggi alla Bufala in Tavola e tra poco io e te mangiamo simpaticamente insieme ai nostri ospiti e possiamo anche mangiarci un dolce piacevolmente, certo, fatto bene. Il problema critico è quando diventa sistematico ed eccessivo e quindi possiamo metterci in moto bene. Quindi, dottor Speciani, tradotto in consiglio pratico, perché noi passiamo dalla letteratura scientifica, i dati, il commento, al consiglio pratico per ridurre appunto questa continua assunzione di zuccheri. Il dottor Speciani consiglia? Ma io ad esempio consiglio di svegliarsi, di mangiarsi 3 o 4, anzi di più, anche 7-8 tra pistacchi ed anacardi, di farsi una crepe con 2 uova col rosso, fatta con la farina integrale, e dopodiché a pranzo ci si mangia un pesce insieme ad un cereale integrale o qualcosa del genere, e a cena una meravigliosa insalata che adesso poi vi racconto nel dettaglio. E perché... allora ce la racconti subito. Dai, questa insalata, ad esempio, per mettere dentro tutti i cibi ad alto contenuto di selenio, un'insalata con polpo, farro, pistacchi condito con olio di oliva, facendoci magari una maionese fatta in casa con il tuorlo, perché buono, perché lei è ghiottissimo. Io sono ghiottissimo. Veramente esattamente come l'orso del miele, il dottor Sloop. Speciani delle noci e della maionese. Beh, in fondo poi un uomo, anche lei è un uomo semplice, assolutamente, con un barattolo di maionese fatta bene a casa e qualche noce e la Nicoletta, il dottor Speciani è a posto. Ma bene. Io oggi sa che aggiungo? Io aggiungerei alla sua squisita e preziosa e salutare insalata qualche erbetta, perché io ho l'uomo che sussurra, o sussurrava, ce lo dirà lui, alle erbe, Franco Lodini, che è tornato a trovarci per il nostro appuntamento mensile. Franco, ciao! Come qua Nicoletta, buongiorno e buongiorno a tutti i radio raccoglitori. Radio raccoglitore, belli. Ci piace, un uomo speciale, Franco Lodini, noi siamo contenti che faccia parte della nostra squadra. Franco, una o tre erbe? Perché noi stiamo dando i numeri. Tu mi hai proposto un ventaglio di erbette, d'altra parte da adesso in avanti non ci sarà che l'imbarazzo della scelta. A te la scelta, Franco. Noi la vorremmo sposare con l'insalata del dottor Speciani, chiamiamola così. È un'insalata che ci aiuta ad assumere una buona dose di selenio, e quindi dottor Speciani, lei ha messo il polpo, giusto? Giusto. Poi ha messo farro, pistacchi. E olio abbondante e olio. Un po' di maionese fatta con l'uovo buono. Ecco, io direi l'olio con il peperoncino, così prendiamo tutti gli interventi dei nostri amici. Franco, dove ci porti tu? Benissimo, allora intanto io aggiungerei a questa insalata la senape selvatica. Wow. Un po' di piccante, un po' di gusto particolare. È una piantina che adesso è in piena fioritura, i fiori gialli, inconfondibili. È molto prolifica, quindi non ci sono problemi a trovarla, a vederla, a scoprirla, ed ha questa proprietà, una pianta piccante che ci dà un piacevole calore, dalla cima ai piedi, potrei dire. Ne parli anche nel tuo libro, che voglio ricordare ai radio raccoglitori, Erbe selvatiche, ricerca, riconoscimento e raccolta, gruppo Giunti, in cui ci sono anche delle foto bellissime. Scusami, ti ho interrotto sulla senape, sul mosto che brucia, come l'hai definita tu. Le senapi sono diverse, quella più naturalmente se ne usa una per fare la senape nel senso della salsa che si usa per mettere sulla carne, no? Come würstel, eccetera. Però questa qui è quella campestre, infatti si chiama Sinapis arvensis, cioè del campo, e questa senape campestre la troviamo, come vi dicevo prima, adesso fiorita, e possiamo raccogliere le foglioline più tenere, le possiamo aggiungere tranquillamente alla nostra misticanza cruda, e i fiori a decorazione da aggiungere dopo, serviranno a dare molto sapore a questa insalata. A proposito di fiori, è tempo di viole. Esatto, ecco, poi io aggiungerei due fiori che sono, oramai siamo in primavera, un po' in anticipo, ma siamo in primavera, quindi aggiungerei i fiori della viola mammola, che sono anche, come sapete tutti, sono profumatissimi, sono buonissimi anche da mangiare, e i fiori della pratolina, ma non solo i fiori, perché di queste due piante possiamo utilizzare, cosa che non sanno in tanti, anche le foglie, e poi anche la pratolina, i fiori della pratolina nessuno li conosce, cioè i fiori sì, ma le foglie possono aggiungere alle insalate, hanno un sapore gradevole di carota. Naturalmente dobbiamo prendere quelli più teneri, più morbidi, perché dopo fra un po' diventeranno duri e si potranno usare solo cotti. I germogli, i boccioli della pratolina si possono anche mettere sotto aceto, sotto sale, come i capperi. No, fantastico! Oh, che bello! Se vuol divertire, la pratolina è la margherita, no? Quindi si fa mi ama, non mi ama, se vuole prevedere il proprio futuro. Sì. Mentre la viola invece è il fiore che ha a che fare con l'amore non corrisposto. È un fiore mangiabile, è un fiore edibile invece per l'amore corrisposto, che ci piace di più? L'amore corrisposto ce ne sono tanti, tutti che si possono mangiare, come vi dicevo prima, quello della senape selvatica, bene, è buonissimo, e poi ce ne possono aggiungere tanti altri, c'è la borragine, c'è, adesso c'è il succhiamiele, la falsa ortica cosiddetta, no? Una pianta molto intelligente che ha le foglie come l'ortica, no? Perché si mette vicino all'ortica per imitare le foglie, quindi non essere disturbata dagli insetti, da chi le vuole raccogliere. Però poi fa questo bellissimo fiore bilabiato, che è molto molto dolce, molto apprezzato anche dai bambini. Franco, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buona giornata e buona domenica. Buona raccolta a tutti. Grazie. E noi ci fermiamo, ma io adesso la sistemo, perché faremo alla domenica il dolce, ci vuole. A tra dolce, poco con un ospite eccezionale. La bufala in tavola. E noi facciamo posto ad una grande amica, molto amata, seguita. Le facciamo posto perché lei aggiunge, noi aggiungiamo un posto, ma lei aggiunge un dolce alla nostra tavola. È in linea con noi Simona Galimberti, conosciuta sul web come Le Torte di Simona. Simona, finalmente. Ciao Nicoletta, buona domenica. Io ti seguo e ti amo. Grazie, così grazie. Mi dichiaro apertamente. D'altra parte io invito in questo spazio proprio gli amici che vorrei avere qua in studio con me, sì, che io sono seguo. Sono già qui. E io il dottor Speciani naturalmente lo seguo. Simona, attenzione, perché io ti amo, ma il dottor Speciani ti fa fare una, ti mette di fronte ad una sfida abbastanza impegnativa, perché conoscendo la tua capacità, la tua bravura, sai che cosa mi ha detto? Bene, mettiamola alla prova. Ecco. Mettiamola alla prova, mettiamola in difficoltà, ha detto. È una dimostrazione di interesse, Simone, se no avrei fatto una cosa banale. Ma ha detto, allora diamole i numeri della formula della salute con cui abbiamo aperto questa nostra chiacchierata della domenica 05:30. Allora il dottor Speciani ha detto, chissà se la nostra Simona, che è così brava, che tutti amano, che tutti seguono, è capace di fare, vero dottor Speciani? Si confessi, perché io voglio dire le cose come stanno. E in questa domenica non è solo santa, c'è anche un po' di diavoleria col peperoncino, il piccante, quindi... Ma avete fatto mangiare delle cose, assolutamente, prima ti ho visto che piluccavi delle cose, ecco. Di quelle dei fiori, sì. quelli strani, come dicevo. Allora vada con la sua sfida per Simona. La mia sfida sullo zero è sullo zero zuccheri aggiunti ove possibile, e quindi è uno zero zuccheri. Cinque sono almeno cinque ingredienti, che sono dei cereali integrali, lo zenzero, ne abbiamo parlato prima, del cacao, del cioccolato, un pizzico di peperoncino e della frutta. Quindi in realtà siamo cinque ingredienti che possiamo, e il 30 ci piace, è l'attività fisica. Questo mi fido, lascio spazio. Può essere 30 minuti di forno, 30 minuti per raffreddare, 30 minuti di preparazione. Ma perché lei, dottor Speciani, ingabbia Simona con questi cinque ingredienti? Che senso ha? Dove li ha tirati fuori? Questi qui, perché ci sono amici che ci stanno seguendo, magari hanno acceso e dicono, ma questi qua che cosa stanno dicendo? Perché abbiamo discusso delle virtù operative del cacao e del cioccolato, che quindi ci consentono di addirittura di migliorare talvolta anche le funzioni del sonno. Abbiamo parlato delle spezie, quindi dello zenzero, del peperoncino, con la loro capacità antiossidante. E in questo momento sono fondamentali, come il selenio, perché la carenza di zucchero operativamente è uno degli elementi che aiuta anche a difendersi meglio dai virus in giro e anche dal coronavirus che siamo in questo periodo. Quindi, e poi perché è frutta e cereali integrali, la frutta fa parte delle indicazioni dell'OMS, della Harvard Medical School, e i cereali integrali sono quelli che ci consentono di vivere più a lungo. E insomma, ho creato una coppia, quindi abbiamo la ricetta delle torte di Simona con il bollino del dottor Speciani, che nelle sue indicazioni racchiude i risultati di una mole di ricerca. Simona, tocca a te. Perfetto. Ti passo la palla. Accetto la sfida. Allora, io userei il cioccolato fondente, lo facciamo fondere, un 100 grammi, 150 grammi di cioccolato fondente, e ci mettiamo in infusione un peperoncino, così si insaporisce bene e diventa un po' piccante. Rovesciamo poi questo cioccolato fondente su una teglia coperta da carta forno e sopra ci mettiamo un po' di zenzero, delle fettine di arancia che fanno benissimo in questo momento, e poi o riso soffiato oppure, se vogliamo sostituire il cereale, con un altro frutto secco, delle nocciole. Lasciamo riposare 30 minuti in frigo. Mamma mia, Simo, ma tu sei super, super Simo, è super buono questo dolce. Sì, perché poi diventa una tavoletta un po' irregolare, la possiamo poi portare a tavola insieme al caffè, a fine pasto, magari tagliata con un coltello in pezzetti irregolari, e diventa scenografica e buona e bella, sana, quindi anche sana abbiamo scoperto. Vedi, anche i dolci possono essere sani, oltre che buoni. Sì, Simona, la tua passione per i dolci nasce da quando eri piccina? Sì, minuscola, veramente. Minuscola. Sì, sì, mi da golosa, e poi mi ha sempre affascinato questo mondo dove le farina con l'uovo e lo zucchero lievitano, questa magia, insomma, di come ingredienti molto semplici possano regalare delle cose meravigliose. E poi cambiando le dosi si creano altri piatti, cioè esatto, sempre sono sempre altri, sembra altri, che esatto, siano sempre gli stessi ingredienti, esatto, ma a seconda gli stessi combinati in maniera diversa o magari introdotti in momenti diversi creano preparazioni uniche. Poi anch'io amo i dolci non troppo dolci, quindi tendo sempre a usare poco zucchero in tutte le mie preparazioni, perché mi piace sentire tutti gli ingredienti e non ho voglia che tutto sia sovrastato dallo zucchero, quindi, Simona, mi trovo molto d'accordo. Sei anche tu della mia idea, cioè in realtà l'eccesso di zucchero impedisce anche di percepire di percepire i gusti. Esattamente, quindi mi piace usarne meno, perché non sia troppo stucchevole, quindi poi uso solo frutta di stagione, amo poi appunto variare molto gli ingredienti a seconda dei ritmi delle stagioni, di quello che mi ispira. Simo, ma qual è il tuo dolce proprio preferito, quello del cuore, quello che fa festa a casa tua, quando chiudi gli occhi e dici ecco il mio dolce preferito? Devo dire che io ho un debole per la ganache al cioccolato. Ah, è qualcosa che, a parte la semplicità nel farla, che mi rilassa, perché appunto tutte le mie ricette sono molto veloci, perché uno deve entrare in cucina e rilassarsi. Quindi è la ganache, che è sempre a base di cioccolato fondente e panna liquida fresca, crea una magia. Poi si può usare così al cucchiaio, farla raffreddare di più, diventa una crema come una farcitura di una torta, però devo dire la mia passione in assoluto. Vedi, semplice e versatile. Sì, assolutamente. Ma vedi che io avevo questa idea che lei fosse sicuramente una donna che aveva la capacità di rispondere ad uno stimolo di curiosità di intriganza. È vero, molto interessante. Infatti. È importante anche lo spunto che ci ha suggerito Simona, e cioè in cucina per preparare qualcosa di buono, ma anche per una cosa molto semplice, per rilassarci. Anche questa è una ricetta, dottor Speciani, anche perché le neuroscienze ci dicono che tutte le cose che noi facciamo con le mani, sì, dottor Speciani, è corretto, quindi impastare, poi cucire, fare il giardinaggio, ma in questo caso noi siamo in cucina, distendono, perché il cervello, insomma, ci guadagna, svuotiamo la testa dai pensieri che in qualche modo possono affaticarlo. Sì, quindi mi sta facendo pensare in questo momento, mi immagino disteso, rilassato, ti vedo mentre prepari la pasta. Ecco, Simona, ma tu quanto tempo passi nella tua giornata a inventare e poi a preparare i dolci? Dipende, ci sono appunto, proprio perché è l'ispirazione, ci sono giornate in cui magari sto 4-5 ore perché proprio sono ispirata, e altre dove magari invece invento le ricette proprio vecchio metodo, carta e penna, proporzioni matematiche per bilanciare gli ingredienti, quindi sono fuori dalla cucina, però ci penso sempre, devo dire che è sempre, non è un lavoro, è una passione, per cui tanto, ecco, in cucina, però appunto cerco ricette veloci, poi io ne faccio di più al giorno, però certo, sto tanto, comunque è la mia stanza preferita da sempre. È vero, quindi guarda che la cucina è davvero il cuore della nostra casa. È il cuore, veramente, sì. E quando tu porti un amico o un'amica in cucina, che dici, vieni, intanto che cucino facciamo due chiacchiere? Oppure quando prepari qualche il dolce con i bambini, beh, lì c'è qualche cosa di molto di più, no? Che realizzare solo una ricetta. proprio una magia, e comunque appunto anche nelle, quando stai preparando, alla fine ti trovi lì con tutti che vengono in cucina a chiacchierare, l'uovo caldo. E poi il profumo, sì. Dai, tu vuoi mettere, entrare in una casa che sa di torta, sì, al cioccolato o di torta di mele? Bene, in questo periodo in cui stiamo più a casa, ecco, profumiamo le nostre case con dei profumi buoni. Buoni. Sì. Dottor Speciale. Cose buone preparate, odore di spezie, ci siamo. Ci siamo, che fa subito casa, è sorriso. Simo, ti ringrazio molto per essere stato con noi, ti continuiamo a seguire, seguici anche tu, le torte di Simona, buona domenica Simona Galimberti, buona domenica al dottor Attilio Speciani, adesso finalmente mangiamo, hola, insieme a Valeria Bernardi che è in regia alla parte tecnica e a Laura Vanossi come sempre in redazione. Noi ci sentiamo domani come sempre, apriamo la giornata insieme, poi a mezzogiorno per le notizie che arrivano dalla ricerca e per le nostre dirette Facebook che vi invito a seguire e a condividere con gli amici. Buonissima domenica dalla vostra salutare ossessione quotidiana. Un bacio.